Il falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. L'operazione Barbarossa, che è il nome in codice dell'invasione tedesca dell'Unione Sovietica durante la Seconda Guerra Mondiale, quella che ha inizio nel giugno del 41, può considerarsi la più vasta operazione militare terrestre di tutti i tempi, il più grande e importante teatro bellico dell'intera Seconda Guerra Mondiale. Porterà nel giro di circa 4 anni i risultati che conosciamo tutti, cioè la disfatta degli stati dell'asse e la vittoria degli alleati. Ma quello che ci interessa ai fini del nostro racconto di oggi è che nel loro cammino di conquista sul territorio russo, i nazisti di Hitler, così come qualsiasi altro invasore della storia dell'umanità, tendono a lasciare dietro di sé morte, distruzione, insomma non risparmiano luoghi di importanza storica e culturale. Anche questo è il brutto delle guerre, lo vediamo anche in questi tempi bui di oggi. Si distruggono monumenti, musei, la civiltà stessa del paese che viene invaso. Ma c'è un fatto strano che è il primo dei tanti misteri di questa storia. I tedeschi radono al suolo Jasnaya Poliana, che è la residenza di campagna di Tolstoi e dove il grande scrittore dà vita alla maggior parte dei suoi romanzi immortali. E intanto, non so, distruggono la casa di Turgenev, altro grandissimo scrittore russo. Inaspettatamente i nazisti nel loro passaggio lasciano intatta Melichovo, che è la residenza estiva per molti anni del grande drammaturgo Anton Chekhov. È diventata oggi uno dei tanti musei a lui dedicati. Ma perché la casa di Chekhov viene salvata e le altre no? Beh, c'è una risposta. Tolstoi e Turgenev non avevano nessuno che li proteggesse a Berlino, invece Chekhov sì. Aveva qualcuno di molto influente che non voleva che il suo nome e il suo ricordo venissero profanati. E qualcuno di molto potente. Bene, ascoltate questa voce adesso. Was soll ich Ihnen singen, meine Herren? Was hören Sie denn immer wieder gern? Questa recitazione in musica che una volta si chiamava il parlar cantando. Se poteste vedere la persona a cui appartiene questa voce in una registrazione del 34, vi innamorereste, perché scoprireste una giovane donna bellissima, elegante, con un sorriso smagliante, occhi verdi enigmatici, carnagione diafana, meravigliosi capelli, insomma una donna che riesce a deviare il corso della storia in suo onore. Hitler stesso dà ordine di risparmiare la sua famiglia in Russia, di evitare che i ricordi, gli scritti e la casa di quello che era suo zio Anton Chekhov venissero spazzati via dalla furia del conflitto bellico. Bene, oggi noi raccontiamo la vita di questa donna straordinaria, vissuta in uno dei periodi più cupi e difficili per la storia dell'umanità. Il nome della nostra protagonista è Olga von Knipper-Chekhova, un personaggio unico, passato indenne attraverso la rivoluzione russa, la guerra civile, il nazismo, lo stalinismo, che diventa un'attrice famosissima del Terzo Reich, che viene idolatrata da Goebbels, ma anche una spia al servizio dei russi, forse. Una donna che ha saputo far tesoro delle sue amicizie influenti e che dopo la guerra è diventata un'imprenditrice di grandissimo successo. Olga von Knipper-Chekhova nasce il 14 aprile 1897 a Alessandropoli, l'odierna Gyumri in Armenia, e allora faceva parte dell'impero russo. La sua famiglia, i von Knippers, è di origine tedesca. Il padre è un ingegnere delle ferrovie che si sposta molto per lavoro. Si porta dietro la famiglia, la moglie Louise, la figlia maggiore Olga e un figlio maschio più piccolo, Liev. A parte il padre, il resto della famiglia è tutta votata all'arte. Louise suona e canta, Liev sarà un noto compositore. Olga, fin da piccolissima, ha la passione per il teatro. Vuole diventare attrice, spesso si traveste in scena dei piccoli spettacoli. E sicuramente sicuramente influenzata dalla zia, la sorella di sua madre, che si chiama Olga come lei, ma che tutti in famiglia chiamano Olia, che è una famosissima attrice di teatro. La zia Olia lavora con un mostro sacro del teatro russo, Konstantin Stanislavski, l'inventore del rivoluzionario metodo di recitazione che viene usato ancora oggi, che porta il suo nome, il metodo Stanislavski, l'avete sentito dire sicuramente. È sposata con un altro gigante della scena artistica dell'epoca, un certo Anton Chekhov, sì, lui, il noto drammaturgo. Grazie alla zia Olga, fin da piccola conosce gente molto famosa e a casa sua arrivano personaggi notissimi, attori, cantanti, musicisti. La zia è amica personale di Eleonora Duse. Un giorno, assistendo a uno degli spettacolini della piccola Olga, proprio la Duse dice questa frase: piccola mia, tu diventerai un'attrice, ma ricordati una cosa, dovrai sempre entrare in scena completamente nuda. Olga Chekhov racconterà nelle sue memorie che per molti anni non aveva compreso il suggerimento della Duse, che ovviamente non parlava di nudità del corpo, ma di nudità dell'anima. Oggi si parla di nudità del corpo per fare l'attrice, ma è una cattiveria che mi è venuta così. Ma comunque, una volta si parlava di nudità in quanto sincerità che ogni attore deve portare con sé sul palcoscenico. Forse è troppo giovane a quel tempo per cogliere la profondità delle parole della Duse. Crede che lei le stia consigliando di puntare sulla sua bellezza più che su altro per fare carriera. Beh, lei è una ragazza bellissima, non le è difficile seguire quello che crede il consiglio di un'attrice di successo. Insomma, le scorciatoie per donne così sono pronte all'uso. E le scorciatoie, non le donne. Se la sua bellezza le apre molte porte, saranno comunque la sua determinazione, la sua grande passione per il teatro e per il cinema che la porteranno ai vertici non solo dell'arte, ma anche della politica mondiale. Il falco e il gabbiano. Olga Chekhova von Knipper ha solo 16 anni quando arriva a Mosca, invitata dalla sua zia attrice. Lei vuole intraprendere quella carriera, vuole fare al meglio e viene introdotta nel teatro dal grande Konstantin Stanislavski, che le insegna il suo metodo di recitazione. Però le basta poco perché è molto portata e così Stanislavski le dà subito una parte importante, Ofelia, nell'Amleto di Shakespeare. E alle prove Olga scopre che il principe di Danimarca è interpretato da un ragazzo molto bello e che in qualche modo fa parte della sua famiglia, perché anche lui è un nipote di Chekhov. È già un attore famoso, ha solo 23 anni, però è conosciuto anche per essere un amante delle belle donne. Quindi l'idillio sboccia immediatamente alla fine della prima rappresentazione. Appena il sipario si chiude, lui la afferra in maniera appassionata, la bacia e in un modo talmente travolgente che la ragazza giovanissima, assolutamente inesperta, ha una reazione che oggi fa sorridere. Misha, dopo quel vostro bacio così appassionato, certamente ora io sarò incinta e voi mi dovete sposare. Eh sì, ai primi dell'Ottocento poteva anche essere che le ragazze pensassero che si poteva rimanere incinte con un bacio, o forse Olga invece stava già tessendo la sua tela, perché in effetti i due si sposeranno, lui a 23 anni e lei 17, così diventa Olga Chekhova, cognome che le piacerà moltissimo, che non cambierà mai più per tutta la sua vita. È innamorata persa, a 17 anni si è così, però non sa che si è cacciata in un guaio, perché lui è un irresponsabile, è portato al tradimento e inoltre ha ereditato dal padre il seme dell'alcolismo. Insomma, all'inizio lei lo ama e lo perdona sempre, al punto che hanno anche una figlia, Ada, che diventerà anche lei attrice. Pensate, morirà nel 66 nella famosa tragedia di Brema, quella nella quale persero la vita un sacco di ragazzi della nazionale italiana di nuoto. A complicare la vita di Olga e di suo marito arriva la rivoluzione bolscevica. La Russia è nel pieno della guerra civile, c'è chi favorevole ai comunisti, all'uscita di scena dello zare, chi invece rimane fedele alla famiglia imperiale. Tra questi c'è anche Lev von Knipper, il fratello di Olga, che era diventato un valente compositore, entra a far parte della Guardia Bianca, sono i controrivoluzionari che combattevano i bolscevichi. Ma come sappiamo, la storia darà ragione a loro, ai bolscevichi. Lenin prenderà il potere e lo zar Nicola verrà trucidato con tutta la sua famiglia e la Russia per parecchi decenni diventerà l'Unione Sovietica. E lei inizialmente, Olga, vive questo momento travagliato perché da privilegiata lei comincia a perdere tutti i vantaggi del suo ceto, fa parte di una famiglia in vista e anche i Chekhov lo sono, però l'evoluzione del suo paese le toglie tutto. Lei è in crisi profonda col marito, le cose non vanno, iniziano addirittura a scarseggiare i beni di prima necessità. Il fratello è un sorvegliato speciale, insomma è un momentaccio. Lei decide che è il momento di cambiare aria. Ascoltiamo lo scrittore inglese Anthony Beevor, che è il suo biografo ufficiale. È il 1920. La bellissima Olga Chekhova lascia la figlia Ada da sua madre e parte per Berlino. È abbastanza normale per una russa tedesca andare in Germania, e lo è a maggior ragione per una come lei, nella Russia di Lenin. Olga parte senza soldi, conoscendo pochissimo il tedesco. Unico bene, un anello con un diamante cucito nel risvolto del suo cappotto. Eppure, nel giro di pochissimi mesi, diventa l'attrice più famosa di tutta la Germania. E questo ve la dice lunga sul suo livello di determinazione. Quindi Olga parte per la Germania, abbandona Mikhail, che comunque se la cava, va negli Stati Uniti, diventa insegnante di recitazione e avrà allievi come Marilyn Monroe, Gregory Peck. Insomma, le cose stanno lentamente migliorando. Lei arriva in Germania, è il 1920, parla male il tedesco, però Berlino è piena di esuli russi che l'aiutano volentieri. Poi il nascente cinema tedesco è in pieno boom e per fortuna è anche muto, per cui gli attori si limitano a mimare le battute con l'accompagnamento del pianoforte. È molto più importante la mimica facciale, la bellezza, sono cose che Olga possiede e che sa far fruttare al meglio. Nel giro di pochi mesi si fa conoscere. Nel 21 ha un esordio importantissimo nel film Il castello di Vogelod di Friedrich Wilhelm Murnau, un regista famosissimo, considerato ancora oggi uno dei padri del cinema mondiale, quello che nel 22 realizzerà il suo capolavoro Nosferatu, il vampiro. Questa apparizione sugli schermi regala a Olga una grande notorietà. Nel giro di un paio di anni diventa la diva più ricercata del cinema tedesco. È la protagonista di Nora, del Cappello di paglia di Firenze di René Clair, di Moulin Rouge di Dupont. Arriva addirittura a lavorare con un giovane Alfred Hitchcock in Mary, la versione in lingua tedesca di Murder. Nel 30 è protagonista del film La sirenetta dell'autostrada, il primo film sonoro prodotto in Germania. Lei canta, balla, recita in un tedesco perfetto. Eine niedliche kleine Erpressung. Aber Willi. Mein Fräulein, zwischen uns ist wohl alles klar, nicht wahr? Erst gehen wir zum Traualtar. Und dann? Ja, dann lassen wir uns wieder scheiden. Ich hab genug von der Geschichte. Così nel 1930 le viene concessa la cittadinanza tedesca. Lei è perfettamente integrata nella Germania, dove sta nascendo il nazismo di Hitler. È ricca, è famosa, è una star del cinema, gira 8-10 film all'anno, ha con sé anche la famiglia perché ha fatto venire la madre con la bambina a Berlino. È più tranquilla perfino sulla sorte del fratello Lev von Knipper, a cui il destino ha giocato uno scherzo beffardo, perché scrive un pezzo di successo che poi diventa un inno perfetto per l'Armata Rossa, una delle più amate canzoni popolari russe di tutti i tempi. Comunque se la cava. È proprio attraverso suo fratello che la vita di Olga Chekhova sta per trasformarsi in qualcosa di incredibilmente avventuroso. Lo vediamo tra poco. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di una donna bellissima, Olga Čechova, che diventa una diva della Germania di Hitler, pur essendo partita dalla Russia, nipote del grande Anton Čechov, una donna che vive una vita straordinaria, circondata ancora oggi da un alone di mistero che mai è stato svelato. Ha lasciato la sua Russia, stremata dalla guerra, dagli stenti, dalla rivoluzione, per trasferirsi a Berlino e diventa una diva acclamata prima del cinema muto e poi addirittura di quello del cinema sonoro. E Berlino diventa la sua nuova patria, ottiene la cittadinanza tedesca, si fa raggiungere dalla madre, dalla figlia, ha un fascino particolare, la sua bravura nel canto e nella recitazione la trasformano in una vera e propria star, ha ammiratori molto illustri, in particolare ha una venerazione per lei un certo Joseph Goebbels, che è il capo della sezione berlinese del partito nazista e che nel 1933, con l'ascesa di Hitler al potere, diventa ministro della propaganda, diventa l'ufficio stampa del Terzo Reich. E Goebbels scrive così nei suoi diari: Eine charmante Frau. Una donna affascinante, Olga Čechova. Fulgido esempio di arte ariana che si contrappone all'arte degenerata ebraica, massonica e bolscevica. E in effetti lei, a parte il fatto di essere comunque di origini tedesche, perché si chiama von Knipper, ha delle caratteristiche fisiche che la rendono una perfetta ariana. Capelli castano chiaro, occhi verdi, carnagione bianchissima, fisico, atletico e slanciato. E poi tutti sanno che ha abbandonato la Russia proprio quando sono saliti al potere i comunisti, quindi è la perfetta testimonial, diremo oggi noi, del nuovo pensiero che si sta espandendo in Germania. Goebbels, che riveste la carica di ministro della propaganda, assume il controllo totale di ogni ramo dell'informazione, della vita culturale e sociale tedesca. Stampa, cinema, teatro, radio, sport, tutto può servire a diffondere i dettami e l'ideologia del Terzo Reich e soprattutto il suo pensiero con i principi della morale nazista. E Goebbels ormai è il dittatore della cultura del Reich e a lui Olga piace moltissimo. E non si sa quanto gli piace, insomma, se a lei piace a lui, se quali ipotesi possiamo avanzare. Sta di fatto che lei, Olga Čechova, inizia a frequentare gli alti vertici del partito nazista. Presto incontrerà anche il Führer e lui le regalerà una sua foto con questa dedica. Alla straordinaria Olga Čechova, con sincera ammirazione e devozione. Così sempre più spesso l'attrice viene invitata alle feste e ai ricevimenti ufficiali del partito nazista. Ci sono molte foto che la ritraggono a tavola seduta tra Hitler e Goebbels, diventa amica di Eva Braun, insomma, frequenta il bel mondo, la gente che conta in quel periodo. Lei non è nazista, non è comunista, è una donna pragmatica, è capace di compromessi, è piena di risorse, è dotata del sangue freddo necessario per uscire indenne anche dai giochi più pericolosi. Naturalmente queste sue doti non passano inosservate. L'intelligence sovietica la sta tenendo d'occhio e pronta a sferrare il suo attacco al momento giusto. Il tramite c'è e lì vicino a lei ha un nome e un cognome, Lev von Knipper, il fratello di Olga. Ascoltiamo ancora il biografo Anthony Beevor, che nel suo libro Il mistero di Olga Čechova racconta questo delicato passaggio della vita dell'attrice. Nel 1923 il fratello di Olga, Lev von Knipper, aveva avuto il benestare dall'intelligence sovietica di recarsi a Berlino. Lui era stato un esponente di spicco della Guardia Bianca, aveva combattuto contro i bolscevichi durante la guerra civile e il suo solo modo per salvarsi dopo la rivoluzione era stato di accettare un terribile compromesso, fare un patto col diavolo. Aveva accettato di lavorare per la CECA, la polizia segreta. Era diventato una spia. Così il fratello di Olga, quell'anticomunista convinto, in realtà diventa una spia sovietica. Vive a Berlino, passa costantemente informazioni di varia natura all'intelligence. È inevitabile che con l'avvento del nazismo e le prime avvisaglie di quello che diventerà poi il secondo conflitto mondiale, i russi chiedano di più a von Knipper e soprattutto gli impongano di coinvolgere la potente e introdotta sorella. A questo punto la vita di Olga Čechova assume i toni di una spy story, si trasforma dalla favoletta della ragazza che diventa una diva del cinema in qualcosa di molto ma molto più pericoloso. A questo punto i contorni della vicenda si fanno meno definiti, entrano nel campo delle ipotesi, perché di fatti certi da questo punto ce ne sono pochi. Quello che è sicuro è che Olga viene reclutata dall'intelligence sovietica come agente dormiente o spia in sonno, e ci facciamo spiegare che cosa significhi da Anthony Bevor. Un agente dormiente o spia in sonno è un agente segreto che diventa cittadino di un altro paese, o già lo è, e conduce un'attività di intelligence su richiesta. Quindi passa informazioni, scatta fotografie e cose così. Questi agenti sono detti dormienti perché continuano a condurre una vita del tutto normale e restano inattivi, finché non vengono chiamati a compiere azioni sovversive o anche terroristiche. Quindi Olga Chekhov non si sa bene quando e non si sa bene come, e a un certo punto, dopo il 36 sicuramente, è una spia sovietica in Germania e coadiuva l'attività del fratello. Dopo il 36, perché in quell'anno Olga vive due esperienze molto importanti. Intanto si sposa, perché ha ottenuto il divorzio da Mikhail, sposa l'industriale belga Marcel Robbins, ovviamente un milionario. La seconda è che Hitler in persona la nomina attrice di Stato, un riconoscimento di altissimo prestigio. Entrambi i fatti sono registrati negli archivi dell'intelligence sovietica, che cataloga tutti gli avvenimenti che accadono ai propri agenti. Quindi questo può avvenire solo dopo il 36. Lei fa il doppio gioco, continua a fare l'attrice, anzi ha sempre più successo, lavora con i migliori registi del regime, perfino con Max Reinhardt, considerato il più importante regista tedesco di quel periodo, e intanto frequenta Hitler, Goebbels, altri gerarchi nazisti, è amica di Eva Braun, ma intanto raccoglie informazioni, invia messaggi cifrati al fratello seguendo le tecniche di scrittura criptata apprese di nascosto. Perché Olga faccia tutto questo non è chiaro, non lo sarà mai, non è una patriota, soprattutto non ama i bolscevichi dai quali è fuggita. E non odia i tedeschi, anzi da loro in fondo non ha ricevuto che del bene, non è contraria al nazismo, o di sicuro non lo è all'inizio, e poi non mi sembra il tipo che si converta a una fede politica, a un ideale, e non è plausibile neanche pensare che venga ricattata dai russi, che avrebbero potuto smascherare il fratello, però avrebbero così perso un agente importante. Insomma, le vere motivazioni di Olga sfuggono anche ai suoi biografi, parlano di lei come di una donna abile, capace di andare dove soffia il vento della vittoria. Quello che è certo è che lei ha una sua opinione tutta personale sui nazisti, lo scriverà nelle sue memorie. Non c'era nessuno in tutta la leadership della Wehrmacht che suscitasse in me un qualsiasi interesse di carattere sessuale. E io a quel tempo ero diventata anche meno selettiva, mi aggiravo sui 40 anni. Insomma, meglio i muscoli dei subalterni che quelli un po' più flaccidi dei loro capi. Il paragone con Matari viene abbastanza facile, anche quello con Greta Garbo, che si diceva fosse una spia degli alleati in Svezia, anche se Greta Garbo aveva altri gusti in campo sentimentale. Però rispetto a loro la posizione di Olga Chekhov è più ambigua riguardo alle motivazioni e più avvolta nel mistero. Forse vuole far carriera in Germania, ma si tiene buona anche la sua terra natia, la grande madre Russia. Non si sa mai, insomma, alcuni storici intravedono nella vicenda di Olga Chekhov addirittura gli estremi per parlare di un doppio gioco. In pratica sembrerebbe che a un certo punto Olga passi ai russi informazioni che le vengono fornite apposta dai tedeschi e ai tedeschi informazioni sui russi. In questo periodo lei, dopo aver lasciato il marito belga, ha una relazione con un pilota di 20 anni più giovane di lei, un asso dell'aviazione tedesca. Può essere che, essendo una donna passionale, si lasci trasportare dai sentimenti, accetti di tradire i russi. Insomma, il gioco è molto pericoloso, ma lei sembra non temere nulla. Arriviamo al 1942, Lev von Knipper viene chiamato a Mosca dal generale Sudoplatov su richiesta di Lorenti Beria, che era il capo della polizia segreta di Stalin. Era il terribile Beria. L'ordine che gli deve trasmettere il generale è drammatico, va dato di persona. Von Knipper verrà incaricato di organizzare insieme a sua sorella Olga l'assassinio di Hitler, un compito la cui portata sembra francamente superare le capacità dei due fratelli. Von Knipper accetta l'incarico, l'ordine per sua fortuna direi, verrà revocato quasi subito dallo stesso Stalin perché lo ritiene troppo rischioso e secondo me gli sarebbe andata a finire male. Gli eventi successivi li conosciamo, Hitler muore comunque, suicida nel suo bunker, gli alleati vincono, entrano in Germania, Olga, suo fratello e il resto della famiglia tornano a Mosca, prelevati da un aereo militare personale di Stalin, vengono trattati con tutti gli onori, ospiti del dittatore. Insomma, lei a fare il doppio gioco ci aveva visto giusto. Ma i fatti misteriosi intorno alla vita di Olga Cecova sembrano non avere fine. Ascoltate ancora il suo biografo. Dopo la fine della guerra, Olga chiede di potersi stabilire a Berlino Est, cosa che le viene concessa, dove fonda una sua casa di produzione cinematografica, la Venus Films. Beh, fin qui tutto bene. Lei è stata una grande attrice, ha guadagnato molto, ma la Venus Films fallisce, va in bancarotta, quindi lei in teoria non dovrebbe avere più molti soldi. E invece nel 49 lascia Berlino Est, si trasferisce a Monaco di Baviera, dove fonda un'azienda di cosmetici, la Olga Cecova Cosmetics. Ma con quali soldi? Bene, i soldi si dice che le arrivino direttamente dai servizi segreti russi. Beh, che sia una leggenda oppure verità è difficile dirlo. Di certo i servizi segreti non hanno versato un assegno a Olga Cecova, non c'è evidenza di questo, l'assegno, la fattura, cioè, è probabile che qualcosa di vero ci sia, magari una sorta di liquidazione per i servizi resi. Così lei prosegue con la sua carriera di attrice ancora fino agli anni 70, partecipa a una ventina di film, arriva a oltre 100 pellicole girate in 50 anni, supera il grande dolore per la morte della figlia Ada e si circonda di amanti giovani, alcuni giovanissimi, scrive un libro di memorie però molto romanzato. Poi scrive un manuale dedicato alla bellezza delle signore non più giovanissime, donne senza età, continua a lavorare nella sua azienda. L'azienda esiste tuttora e lei muore per leucemia il 9 marzo dell'80, ha quasi 83 anni. Recentemente in Russia si è tornata a parlare di Olga Cecova, è stata realizzata anche una retrospettiva sui suoi film. Un produttore cinematografico che si chiama Rauf Atmalibiekov spiega così questo rinnovato interesse per lei. Era una persona molto interessante, con un destino non comune. Una donna che si è fatta da sola, una self-made woman che ha dialogato con i potenti della terra e ha sempre avuto successo in ogni cosa che ha fatto. Una personalità molto molto interessante. Anche i suoi ultimi istanti sono avvolti da un'aura di leggenda. Ecco il racconto della nipote Vera, anche lei attrice. La nonna Olga stava morendo, ma mi mandò in cantina a prendere una bottiglia di champagne. Raccontava sempre che lo zio Anton Chekhov, era morto bevendo champagne e lei voleva fare lo stesso. Insomma, ritornai nella sua camera con una coppa di champagne. Lei lo beve tutto e poi disse: «La vita è bella», espirò. Quelle furono le sue ultime parole. Beh, che bello, c'è una chiusura, un'uscita di scena grandiosa. Comunque, è vero o falso che sia, il mistero della morte di Olga Cecova non è che l'ultimo di tanti interrogativi lasciati aperti sull'esistenza leggendaria di questa bellissima attrice che seppe stregare il Führer, che fece innamorare Goebbels, che sarà sempre ricordato come la diva del Terzo Reich, che avrebbe anche potuto uccidere Hitler. Ci sono storie di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala, oppure storie di persone che il colpo d'ala l'hanno dato un po' da una parte, un po' dall'altra, oppure persone che sono morte con il loro segreto tenuto ben stretto. È il caso della nostra protagonista di oggi, Olga Cecova. Se avete delle altre storie che vi sembrano interessanti, volete che noi le raccontiamo con voi e per voi, fatelo scrivendo al falcoilgabbiano@radio24.it oppure sul nostro sito www.radio24.it. E se no venite a trovarmi nei miei social, nei nostri social, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani.